Intanto iniziamo con alcune informazioni, con alcune notizie che ci piace condividere con il nostro pubblico a inizio, non dico trasmissione, ma inizio delle nostre presentazioni. Intanto un benvenuto a tutte le signore e signori, grazie di essere qui con noi per questa nuova serata dedicata alla storia moderna e contemporanea declinata sul nostro territorio con due ospiti, anzi tre ospiti veramente di grande calibro, e sono appunto Maurizio Ferrandi, Hannes Obermeier, Gabriele Di Luca, che curerà invece la parte della moderazione. Ecco che vedo arrivare anche Hannes Obermeier, prego accomodati, abbiamo iniziato un po' a scaldare i motori. Sì. Ecco, il motivo per cui siamo qui è la presentazione di questo libro, pubblicato fresco fresco, Camicie Nere in Alto Adige 1921-1928. Gli autori appunto sono qui con noi, abbiamo un moderatore appunto che è Gabriele Di Luca, che ci accompagna in tante presentazioni. E siamo contenti anche di potervi mostrare un piccolo saggio di quelli che sono i libri che la biblioteca ha e mette a disposizione del pubblico legati in particolare a questo tema. Altre iniziative che si susseguono nell'ambito della nostra attività sono quelle che volevo segnalarvi, quindi l'8 novembre, fra due giorni, sempre alle 17:30, un libro di Giorgio Dobrilla, C'è sempre da imparare, è la nuova edizione dell'anno 2023, ci troveremo qui appunto con Giorgio Dobrilla fra due giorni alle 17:30. E poi segnaliamo il gruppo di lettura, Tutti Saggi, che si dedica, detto anche Officina del Pensiero in questo caso, dove Rosetta Infelice Fronza e Bruna Maria Dal Lago Veneri dedicheranno il giorno 15 novembre dalle 17:30 alle 18:30, si dedicheranno al gruppo di lettura con la riflessione e le letture dal titolo Luce e Ombra. Ecco, quindi questo è un altro appuntamento a cui teniamo in particolar modo. Vi lascio subito con i nostri ospiti, che ringrazio ancora. Ringrazio anche l'AMPI, che ci dà una mano sempre nell'organizzare, nell'attivarci con iniziative di questo genere. E vi auguro una buona serata, ma soprattutto di ritrovarci qui in biblioteca, qui presso il Trevi Lab. Grazie. Bene, iniziamo vedendo il pubblico ad occhio, essendo lieto che non sia un pubblico esiguo, però appunto conoscendo abbastanza le facce ci risparmiamo il rito che si fa quando ci sono autori che dovrebbero, come dire, essere presentati perché si suppone che non siano noti. In questo caso Hannes Obermeier e Maurizio Ferrandi sono notissimi, per cui saltiamo questa formalità. Mi sembra di avere politici di vaglia in tribuna, e quindi salto anche quell'altro rito che generalmente si fa di saluto l'assessore, il sindaco, cioè, se non c'è nessuno andiamo avanti dritti. Andiamo dunque al libro. Il libro che viene presentato questa sera ha un titolo abbastanza netto e esaustivo, Camicie Nere in Alto Adige 1921-1928. La presentazione temporale non è soltanto accessoria, non descrive soltanto il perimetro temporale entro il quale questo libro, questa trattazione effettivamente si svolge, ma anche la funzione di focalizzare già il tema, appunto, non soltanto in termini di cronologia, perché il fascismo è stato, questo è quello che viene comunemente chiamato il ventennio, o il regime del ventennio, appunto, ha avuto sicuramente fasi diverse, ognuna caratterizzata da peculiarità e da caratteristiche proprie, per cui parlare del fascismo in generale potrebbe essere molto vago. Il fascismo va affrontato, spengere i telefoni, comunque, ecco. va affrontato, diciamo, di volta in volta a seconda dei paesaggi che ha aperto. C'è un'altra indicazione importante, sulla quale poi tornerò immediatamente dando la parola per prima a Hannes Obermaier, che è quella della denominazione il fascismo di confine. Ecco perché non solo vale il discorso che il fascismo ha vissuto diversi periodi e ogni periodo quindi merita una trattazione specifica, ma dove il fascismo ha governato, quindi in Italia ma anche fuori dall'Italia, in quelle sfortunatissime escursioni di cui si è reso protagonista, chiaramente c'è da dire anche lì, per cui ci sarà un fascismo coloniale, ci sarà un fascismo nella capitale, quindi un fascismo romano, ci sarà un fascismo meridionale, ci sarà un fascismo padano, ma il concetto di fascismo del confine, il fascismo al confine, assume un peso molto particolare, non solo perché questo libro si propone di spiegarlo nei minimi dettagli, ma perché la coloritura territoriale, quindi quando si parla di confine, connota il fascismo in un certo modo, lo illumina in un certo modo. E questo vale ovviamente sia per quanto riguarda il nostro territorio, quindi la provincia di Bolzano, in parte, ma comunque anche la provincia di Trento, ma vale ovviamente anche per quanto riguarda il cosiddetto nord-est, o meglio est, è la zona attualmente vicino a Trieste, insomma Trieste, Gorizia, la Dalmazia, l'Istria e quella roba lì, che ovviamente anche lì il fascismo si è esplicato in modo tutto peculiare e forse affine. Allora, come è costruito il libro? Io dirò subito tre cose introduttive sulla costruzione del libro per chi non l'ha visto, insomma, perché non ho avuto il tempo di vederlo. Così se lo può immaginare. Il libro gli autori che figurano in copertina sono appunto Maurizio Ferrandi e Hannes Obermaier, però non è una scrittura, non si sono divisi la scrittura, non hanno scritto il libro veramente a quattro mani, hanno scritto il libro dividendosi un po' i compiti, per cui diciamo, alla fine avrete in mano quello che si può chiamare un po' il panino, cioè quel pane intorno lo ha cucinato Hannes Obermaier con un'introduzione e con un'appendice assolutamente interessante, direi rara, ecco, cioè non, perché poi vedremo perché, comunque c'è questa appendice molto interessante, mentre tutto il corpo centrale è costruito, diciamo, dai saggi di Maurizio Ferrandi, dalla scrittura di Maurizio Ferrandi, perché appunto altra cosa c'è da dire, questi due autori interpretano anche sensibilità stilistiche direi diverse, non agli antipodi, ma diverse, mentre la scrittura di Hannes Obermaier ha dentro di sé l'andamento, la posa, lo stile appunto della saggistica storica, Maurizio, che è direi sempre più storico che giornalista, cioè negli ultimi anni insomma è diventato sempre più storico che giornalista, però conserva sempre nella sua scrittura un taglio narrativo che rende le cose che fa poi estremamente piacevoli, non perché i saggi di Hannes non siano piacevoli, ma appunto però qui si nota di più, diciamo, la scuola tecnica, diciamo, del saggista storico. E questo è già un primo elemento di interesse, cioè quindi due autori con due approcci diversi che si cimentano a raccontare questo tipo di storia. Altra cosa che devo dire assolutamente, e non mi perdonerei di scordarmela, è questo: il libro esce nella collana Territorio e Gesellschaft di Fedeta, che ormai ha una abbiamo l'editore Aldo Mazza ovviamente presente. Questa collana, che ormai ha raggiunto un numero cospicuo di titoli, ha una mission che è tradotta in modo palese in questo libro, nuovamente, ma qui in modo, direi, proprio in modo così esemplare, ovvero quello di riflettere sulle cose, magari anche appunto altoatesine, territorio Gesellschaft, si parla ovviamente della Gesellschaft sul tirolese altoatesina e del territorio sul tirolese altoatesino, non visti una volta da un punto di vista e un'altra volta da un altro, come se questi due punti di vista, che, per dirla brevemente, tedesco e italiano, non si incontrassero mai, ma l'intento è quello di immaginarsi un pubblico che, come direbbe Aldo Mazza, è un pubblico che ama la stereofonia e non invece come dire, la produzione mono. Ciò significa che in un territorio come questo o si riflette insieme sulle cose, oppure la riflessione risulta erba, risulta monca, risulta in qualche modo non mette a fuoco la realtà. Per mettere a fuoco questa realtà occorrono due occhi, due orecchie, eccetera. Quindi questo viene fatto generalmente dalla casa editrice Alfabeta. Un po' come un unicum in questa provincia, e questo libro traduce perfettamente questo intento, per cui anche se loro due non hanno composto materialmente il libro insieme, cioè non è che si mandavano i capitoli e quello aggiungeva, come a volte succede per i libri fatti a quattro mani, ma in questo caso semplicemente l'accordo nasce spontaneo, diciamo, viene fuso, si fonde automaticamente, proprio perché questi contributi guardano nella stessa direzione, sapendo appunto che si rivolgono a un pubblico di tutte e due le lingue e non di una lingua sola. Per cui è notevole da questo punto di vista. Ultima cosa che dico è questa: è un libro molto piacevole. Uno che sembra un po' una banalità, ma non è vero. Io, per esempio, che pure ho un fatturato di letture molto alto, però questo libro mi è arrivato due giorni fa, e pur anche facendo altro me lo sono letto, come si legge, insomma, me lo sono portato anche a letto, nel senso che un po' perché la storia ovviamente a me, ma di formazione professionale, mi interessa, ma anche perché effettivamente lo stile con il quale è scritto è molto piacevole, quindi anche per quelli che comunque hanno contezza dei fatti o comunque insomma più o meno sanno quello che è successo in quegli anni lì, vale la pena leggerlo, perché si divertiranno, secondo me si divertiranno. Ecco, esaudite queste mie un po' estemporanee considerazioni preliminari, entro quindi dentro il libro insieme ad Hannes Overmeyer, al quale faccio un paio di domande, o una scandita in più domande, a partire proprio dal titolo, raccontare il fascismo di confine. Tu hai, diciamo tu perché ci conosciamo, tu hai in questa tua breve introduzione fatto un po', diciamo, lo stato dell'arte sulla letteratura appunto scientifica che riguarda il fascismo di confine, e c'è una tesi, volevo che tu ce ne parlassi in particolare, perché quello che tu rilevi come connotante, questa prima, poi ti chiedo, magari insomma discuteremo se vale anche per il fascismo di dopo, credo di sì, ma possiamo parlarne, ma la cosa che ha connotato, diciamo, l'impatto del fascismo sulla società locale è caratterizzata da un evidente razzismo. Tu usi un termine inglese che è othering, che significa che potremmo tradurre come l'attribuire alterità, però marcandola in senso molto forte. davvero appunto parli di razzismo. Ti faccio questa domanda perché sullo sfondo tengo un'opinione diversa, della quale magari qualcuno anche c'era quando abbiamo presentato il libro di Andrea Di Michele. Non voglio ovviamente convocare Andrea Di Michele a supporto o a scorno di quello che tu hai detto, ma lui pubblicò peraltro un libro anche di Alfredo Saggio intitolato "Ma fu razzismo, è stato razzismo quello dei fascisti, vero razzismo quello dei fascisti in Alto Adige?" E lui prova un po' anche nel suo ultimo libro, appunto Terra Italiana, a dirci che non era così, mentre tu invece punteresti chiaramente a dire che è così. Quindi io ti faccio una domanda, insomma, era razzismo, è stato razzismo e perché? Beh, innanzitutto grazie di questo invito alla biblioteca, ovviamente, e grazie della vostra presenza molto gentile. E per rimanere un po' nella metafora già utilizzata, è un po' un doppio LP, cioè compri uno, prendi due. E però devo dire da subito che, e mi permetti Gabriele che divago un attimino, che la parte del leone di questo libro è di Maurizio, cioè che io considero ormai una sorta di nuova mela su tirolese o alto attesino, cioè ha una scrittura talmente bella, perché giustamente tu dici è piacevole, ma ti saranno piaciute soprattutto le sue parti, immagino, cioè, quel che ha scritto, perché lui ha scrittura davvero, cioè, peraltro è stato rimarcato da Dino Messina sul blog del Corriere della Sera, che ha già letto il libro mentre le mie parti sono un po' più, forse un po' più asciutte, no, da questo punto di vista. Però per arrivare alla tua domanda molto puntuale, già che ci siamo, no, è giusto, io mi sono permesso un attimino di focalizzare tra l'altro questo punto, perché gli studi più recenti, soprattutto in ambito anglosassone, mi riferisco a Mia Fuller, ma anche a Roberta Perga, che è una brissinese che però studia e lavora negli Stati Uniti, hanno sviluppato degli strumenti analitici che ci fanno capire, e non è farina del mio sacco pertanto, che tutto il corollare, tutto lo strumentario razzista del fascismo, cioè per loro è evidente che ci sia quello di considerarsi, diciamo, quasi una questa manifest destiny, diciamo, del fascismo, di essere la punta della civiltà, di essere deputato a insegnare ad altri, come peraltro lo troviamo scritto sul Monumento alla Vittoria, no? Cioè di educare, di formare, di essere come dire, quasi volente o nolente, grazie a questa civiltà italica, romana, rinata nel fascismo, di avere un compito, come dire, mondiale. E questo strumentario viene però, e questo è il bello di questi studi che ho appena citato, Fuller e Perga e altri, viene sviluppato nelle colonie, cioè è un retaggio già dell'ultimo 800 in Eritrea, poi in Libia nel 900 e poi in Abessinia, Etiopia, dove peraltro vengono formulate le prime leggi razziali, prima ancora delle leggi razziali fasciste del 38, molto molto prima, e sono tutte destinate a formare e a disciplinare un corpo sociale. Questo questa attitudine, chiamiamola così, questa attitudine razzista del fascismo, che poi è la stessa attitudine razzista del nazismo, poi che viene dopo, no? Ma che per certi versi si configura su questo urfascismo, come lo chiamò Eco, viene sperimentato soprattutto nelle, e qui si chiude il diciamo quell'arco epistemico, come nelle zone di confine, perché lì è ancora più arduo il compito del fascismo quando si incontra con le popolazioni slave nella zona triestina istriana, e ovviamente, e qui siamo nel nostro, no? Cioè nelle nuove province a ridosso del Brennero. E già la terminologia, la semantica, la semioetica, ho citato Susan Petrilli, no? Sì. Che è una delle, la semioetica, quella del chiamare, diciamo, allogotti, allogeni, questi altri, è il segno evidente, tangibile del othering, no? del denotare l'altruità. Cioè prima bisogna farne un altro per poterlo assimilare, no? O dominare, o comunque disciplinare, o costringere poi ad adarsene, semmai, no? Pertanto la mia risposta è affermativa. Va bene, io ne prendo atto e, come dire, la chiudo qui anche, però anche in questo caso, se qualcuno poi ama o amerà intervenire, noi diamo la possibilità. Io tengo d'occhio il telefono, una delle mie. Sì, dipende molto da noi che non sfogliamo troppo. Dipende molto da noi, siamo 17:58, in realtà è pazzesco, ma se ne sarebbe andata anche la prima mezz'ora. Però vi prometto e vi giuro che tra 40 minuti al massimo noi chiudiamo e poi eventualmente riapriamo se c'è silenzio da parte vostra, però la cosa è intesa anche per dare possibilità alle persone di... Un'altra cosa brevissima, proprio brevissima, che mi ha diciamo incuriosito è questa, proprio te lo chiedo a te, perché penso tu sia quello che forse, a parte Hans Eis che ho visto in, come dire, tra il pubblico, uno degli studiosi di lingua tedesca più consapevoli e attenti anche di quello che si muove sullo scenario italiano, nel senso che consuma la letteratura scientifica, ma non solo scientifica, in lingua italiana, e quindi può dirlo. A un certo punto tu parli della mancanza di uno Steurer italiano. Ora, citando Steurer, citando Leopold Steurer, noi andiamo a citare quello storico sul tirolese, diciamo accanto forse a Gatterer, ma in modo uguale e diverso a Gatterer, che ha più dato voce all'autocritica su tirolese, ovvero uscendo dal cliché del vittimismo, noi siamo solo state vittime, abbiamo soltanto subito, diciamo, i colpi della storia, altrimenti, che ha deturpato la nostra innocenza. Non è vero, c'è stato un coinvolgimento di colpe, non solo per quanto riguarda poi appunto il fatto che gran parte della popolazione sudtirolese, o una parte della popolazione sudtirolese, ha abbracciato il nazionalsocialismo, ma comunque nella dialettica tra i gruppi linguistici non ci sono solo innocenti e colpevoli. Ecco, quel tipo di intervento sulla storiografia tedesca ha messo in moto non solo una vera e propria rivoluzione del pensiero, ma ha anche poi prodotto, diciamo, una scia di lavori e di approfondimenti che hanno connotato, che connotano, diciamo, il paesaggio storiografico locale su tirolese in modo molto, molto positivo. Quando tu dici che manca un po' uno Steurer italiano, non so se volevi alzare la palla per dirci adesso che Ferrandi è lo Steurer italiano. Ferrandi sicuramente dirà di no, insomma Tentenna dirà non è vero, eccetera, eccetera. Però se tu noti, ecco, se tu noti, te lo chiedo proprio a te perché tu sei equanime e sicuramente competente, se c'è ancora questo arretramento, cioè se vedi che la storiografia italiana fa fatica a illuminare in modo autocritico certe fasi della nostra storia, della nostra in senso proprio italiana, in questo senso. Beh, innanzitutto la mia risposta è molto breve. Bisogna dire che è un'esternazione che bisogna fare in passato remoto, nel senso che Steurer è un fenomeno degli anni 70, certo, dove lui si posiziona davvero come quel traditore etnico che Langer ci ha chiesto. ormai questa cioè quello di indagare la propria parte ed essere schonungslos, come si suol dire, cioè senza fare sconti, in questo storia è stato e rimarrà sempre un po' come Gattara, peraltro, anche no, un astro, diciamo. E ovviamente e noi siamo tutti un po' dei nani, cioè che vedono più lontano, come ben sappiamo, perché siamo sulle spalle di questi giganti, no? Cioè il nano vede più lontano perché sta sulle spalle del gigante, allora lo sovrasta. Però non direi che né Maurizio e Giorgio, che anche qui Giorgio Mezzalira, sono per esempio due esempi di una, e Alessandra Spada, no, che vedo anche nel pubblico, sono proprio è questa generazione che ha messo in pratica anche la lezione storeriana, gatteriana, da un punto di vista almeno linguisticamente italiano, no? Perché poi la vera storiografia o anche il vero giornalismo non usano la lingua, ma come lo usa, come tu cambi marca di sci, no? Se sei uno sciatore, no? Cioè, non è importante, è semplicemente uno strumento per dire cose che bisogna dire, no? Cioè, pertanto ritraggo leggermente ma comunque era una polemica finta, sì. Diamo la palla, finta, diamo la palla a Maurizio, perché Maurizio adesso deve palleggiare, come dire, si sposta la metafora della porta d'Italia sulla quale poi potremo interrogarci, adesso uso quella del pallone. Allora Maurizio, il primo saggio che tu regali ai lettori è un saggio interessantissimo, perché mette al centro la vicenda del Corriere della Sera, quindi due figure cardine del Corriere della Sera di quegli anni lì, che sono Albertini, cioè il direttore, e Barzini, che era, diciamo, l'inviato di punta del Corriere, e aprendo una scena che raramente si è ripetuta, credo, o forse mai si è ripetuta così, cioè il più grande quotidiano italiano, ed era grande veramente già all'epoca, o meglio oggi non è più così grande, perché tu dai anche le cifre, si parlava di 800.000 lettori, oggi il Corriere 800.000 lettori se li sogna, in un'Italia in larga parte analfabeta, beh, quello forse ancora oggi, però comunque non così, le persone non leggevano, eppure in quel periodo lì si leggeva così tanto, e non solo manda qualcuno qui a fare un servizio così su qualcosa che succede di strano, che poi tanto strano non era, no, tipo che i fascisti picchiavano o i fascisti ammazzavano, non era per niente strano, diciamo, già all'inizio, ecco. Però tiene addirittura il suo redattore, il suo corrispondente di punta qui per più di un mese, cioè addirittura gli dà la possibilità di scatenarsi e di prefigurare quelle che sono delle linee interpretative che poi hanno una ricaduta politica molto pesante. Io sintetizzerei così il tuo intervento, ma parlacene pure tu, fin quando ne hai voglia, poi ti sospenderò io se vai oltre. Allora, buongiorno, buonasera a tutti, ringrazio anch'io la biblioteca per questo invito, per la presentazione di questo lavoro. Allora, una cosa, visto che mi sono stato tirato in ballo più volte, lasciatemela dire una cosa, no? Quando io dico che non sono uno storico, poi mi pento, perché se penso che storico è anche uno che racconta storie, io in quel senso lo sono, racconto storie, cioè mi piace tornare indietro nel tempo. In questo libro ci sono un paio di esempi di questo, personaggi, storie di persone, che si incrociano in questa terra anche solo per poche settimane, per pochi mesi, che poi viaggiano verso destini incredibili, diversi. Barzini, la storia di Barzini è una storia di questo genere. A me come giornalista mi ha annichilito l'idea che Albertini lo mandasse sul 25 aprile del 21, all'indomani della famosa Domenica di Sangue, non ho bisogno di dirvi che è quella nella quale i fascisti uccidono il maestro di musica Innerhofer, e ce lo tiene non un mese, Gabriele, ce lo tiene quattro mesi, fino a settembre. Ora voi vi immaginate, c'è solo un altro caso che gli assomiglia non del tutto, che è quello di Sebastiano Vassalli, da cui uscirà la famosa inchiesta negli anni 70 del Sangue e Suolo. Ecco, questo forse lo richiama in parte. Beh, Albertini viene, si piazza e per quattro mesi scrive solo di Alto Adige. Cioè, l'uomo di punta del Corriere, il giornalista che, per il quale la gente comprava le copie per leggere, perché era un fenomeno da questo punto di vista, l'uomo che era andato in macchina da Parigi a Pechino, che aveva scritto, che aveva fatto un'operazione analoga prima della guerra su Trieste, anche in quel caso sposando le posizioni del nazionalismo italiano più acceso, e quello stesso avviene qua. Barzini arriva e sostanzialmente del nazionalismo e del fascismo, che in quel periodo è in crescita, anche se le elezioni del 21 non gli hanno poi dato questo gran risultato, qui poi non era nemmeno presente. E Barzini scrive e sostanzialmente dice: qua i tedeschi Mara maldeggiano, fanno quello che vogliono, il governo centrale è debole, non sa, non sposa le teorie di Tolomei, non è così acido nei confronti del Credaro, del commissario civile, però sostanzialmente questo dice, e conia questa famosa metafora che è quella del Brennero è la porta d'Italia e noi lasciamo che sia un tedesco a far da portiere. Frase che io ho ritrovato paro paro in un discorso degli anni 50 fatto a Bolzano dal dirigente del Partito Comunista Italiano, uno dei massimi dirigenti, Mauro Scocimarro, che all'epoca era l'uomo che Togliatti aveva incaricato di gestire le cose al Tuo Tesino, che viene a Bolzano, dice alcune cose, la posizione del PC allora era abbastanza severa su tutte le questioni, soprattutto nei confronti della Germania per il possibile riarmo, questa, eh? E poi dice una cosa, dice però bisogna l'autonomia, bisogna fare, bisogna essere, cosa, dice però non possiamo, il Brennero è la porta d'Italia. E allora è bello vedere come a distanza di 30 anni, 40, uno schema mentale, uno slogan diremmo oggi, un brand, rimbalzi da una parte all'altra. Gli articoli di Barzini vengono riassunti in un libro che viene edito, lui non c'è già più, è già andato a New York, poi partendo per una serie di avventure professionali che lo porteranno ad una fine ingloriosa e forse anche ingiusta. È uno, credo, dei pochi giornalisti italiani che viene radiato dall'ordine per l'appartenenza al fascismo. Aveva accettato sotto la Repubblica Sociale Italiana di dirigere l'agenzia Stefani perché sperava in quel modo di poter influire sulla liberazione di suo figlio che era finito a Buchenwald. Gliela fanno pagare carissima. Viene buttato fuori e morirà povero e semiabbandonato da tutti. In questo caso in Alto Adige è interessante perché orienta l'opinione pubblica nazionale, non c'è solo lui, c'è anche il Messaggero, la Stampa, ma lui è fondamentale, verso quella che sarà, e qua torniamo al libro, la scelta di quello che avverrà un anno dopo, quando i fascisti verranno a Bolzano, sbaraccheranno il comune cacciando Julius Peratoner, poi andranno a Trento e con la più che evidente complicità di esercito e carabinieri costringeranno alla fuga ingloriosa il commissario civile, di fatto anticipando di 20 giorni la marcia su Roma. e il Corriere della Sera di Albertini dirà: eh sì, non è bello, però se non lo facevano loro il governo non l'avrebbe mai fatto, dando così il suo imprimatur a quell'operazione e all'avvio di una politica che sarebbe stata poi quella esplicitata nel tempo. Grazie Maurizio, anche perché ti sei veramente contenuto nei limiti della domanda, il che è una dote rarissima. Allora, io a questo punto vorrei darti di nuovo la palla, però vorrei farti palleggiare un minimo con Hannes su un tema che secondo me è di grandissimo interesse, probabilmente resta tantissimo. Una delle tesi di Barzini, in fin dei conti, è questa: il governo debole, cioè quello appunto non ancora fascista, quindi debole per definizione o per ovvio confronto, non riesce a mettere il portiere italiano alle porte d'Italia, cosa che però non sarebbe forse così difficile visto che i sovvillatori, quelli che recalcitrano a piegarsi sotto l'evidenza del fatto che ormai il Tirolo meridionale fa parte dell'Italia, sono tutto sommato pochi, come dire, è un gruppo di politici o politicizzati che sta dentro il Deutsche Verband, ma la grande massa della popolazione, e qui uso un termine che dovrebbe richiamare alle orecchie di Hannes qualcosa, non è ancora veramente nazionalizzata, cioè la nazionalizzazione delle masse non è ancora avvenuta in quella forma che conoscerà forse successivamente, in cui si potrebbe parlare veramente di una massa non gestibile. Qui fondamentalmente l'idea è questa: ma questi sudtirolesi in fin dei conti amano l'ordine, vogliono passare, diciamo, alla normalizzazione, potrebbero ottenerla, ma se non lo fanno è perché sono scatenati, sono subillati da dei politici. Quindi la soluzione sarebbe abbastanza semplice fondamentalmente, cioè spengere la rappresentanza politica e dare ai sudtirolesi, forse anche concedere ai sudtirolesi qualcosa che potrebbe calmarli. Era veramente così, cioè la domanda a tutti e due, era veramente così, cioè c'era veramente una popolazione in qualche modo un po' grigia che si sarebbe lasciata condurre altrimenti, e quindi la colpa tra virgolette è soltanto di questi sobillatori del Deutsche Verband, oppure Barzini sottovaluta molto alla fine il carattere dei sudtirolesi e non capisce bene che cosa qui sta succedendo. E poi parleremo dell'altro tema a cui tengo molto. Sì, lo inizio io in questo palleggio, no? Ma poi magari forse inizio e finisci anche. Quello che tutti gli osservatori, questo viene molto ben fuori dalla descrizione perfetta che ne fa Maurizio, non solo Barzini, anche Guerriero, no? Diciamo anche Barbessino, no? Ma anche da parte di lingua tedesca, gli osservatori tirolesi, austriaci, denotano innanzitutto una società traumatizzata, no? Cioè, che è venuta appena fuori dalla guerra, due volte perso non solo la guerra ma anche la madre patria in questo caso, no? Cioè un doppio trauma. Ed è una società, e questa tesi rivolto per certi versi la tua domanda, l'ho pronunciata in un'altra sede, ma l'ho a margine ripresa. Cioè è una società di per sé con una struttura di fondo autoritaria, e quello che non subito, no, ma è nell'aria e che poi nel 22 si afferma il fascismo italiano, cioè è una società pronta per certi versi a un fascismo che poi è un fascismo alieno in questo caso, non è quel fascismo o quell'autoritarismo più che altro che si agoniava, cioè una struttura politica forte, un Führer, diciamo, anche una formazione ideologico-religiosa forte, cattolica in questo caso, molto unitaria. Pertanto io tendo a vedere il fascismo in Alto Adige, che poi è quello italiano e poi sarà quello tedesco non a caso, non di più di un guizzo della storia, no? Cioè, come dire, qui due parti che sono di per sé affiatate, no? Vengono a contatto con tutti gli attriti possibili, con tutte le contraddizioni, ma è una società già che naturalmente, quasi naturwüchsig, no, si avvicina a un esperimento sociale di tipo totale, di tipo totale. E questo viene colto con diversi strumenti, diverse attitudini, con simpatia in molti dei casi da questi osservatori. Questa sarebbe un po' la mia. Interessante. Maurizio, vuoi aggiungere qualcosa di breve? Sì. Leggerò una poesia. I primi due versi, non preoccupatevi. In dem Lande der Verräter, wo der Tiber klassisch fließt. Questa è una robetta, il resto al prossimo libro, che girava per Vienna sul finire dell'Ottocento, traduco per chi, nella terra dei traditori, dove classicamente fluisce il Tevere. Cosa voglio dire? Voglio dire che teniamo sempre presente che c'è una profonda, quanto questo poi fosse radicato nelle valli estreme, nei masi, non lo so, però c'era quello che si dice il nemico storico, il nemico atavico, quello che era, e che quindi in quel momento è vero, come dice, che questi del Deutscher Verband, dice, sono loro i caporioni, non ci fossero loro. Uno dei capitoli, che peraltro non dice nulla di nuovo, perché sono cose scritte già proprio da Steurer nel libro su Josef Noldin, e riprese da recentemente in un altro libro su Salorno, e è la storia delle prediche di Salorno. Quello che avviene nel Natale del 22, quindi a regime mussoliniano già iniziato, nella chiesa parrocchiale di Salorno, io l'ho ripreso, ripeto, non ho scoperto nulla di nuovo, forse ho aggiunto alcune cose che ho trovato negli archivi dell'arcivescovile di Trento sui rapporti tra il vescovo e il prefetto Guadagnini. La storia di questa vicenda delle prediche in italiano è emblematica di un tipo di rapporto, di un tipo di contrasto, di dura realtà, di logica, nella quale a volte gli italiani stessi che erano rappresentati in quelle zone non si identificano nel nuovo italiano che arriva, ma restano legati a vicende precedenti. Quindi è una storia complicata, come tutta la storia di quegli anni. La teoria di Barzini e De Cosi, che si tratti solo di alcuni caporioni, sì, che scaldacolla, diremmo, sì, è una teoria avventurosa, estremamente avventurosa, anche perché poi trova riscontro questi nelle elezioni del 21 il Deutscher Verband qui fa il pieno, tutti e quattro i deputati vengono eletti, gli unici quattro posti a disposizione, e via via nel tempo. Poi dopo certamente ci sono posizioni estreme e ci sono posizioni più moderate. È citato Barbesino. Barbesino e Toggenburg riescono persino a mettere giù un accordo nel gennaio del 23, un accordo, una sorta di alleanza tra fascisti e Deutscher Verband, che poi viene fatta saltare perché non poteva funzionare per un miliardo di motivi. Però ci riescono, perché alla fine, dice, parliamoci, intanto vediamo di mettere fuori causa questi sovversivi rossi che che vogliono portare la rivoluzione bolscevica e che da monaco di Baviera aveva rischiato le cose. Su questo siamo d'accordo nel buttarli, nel metterli in condizioni di non nuocere. E il resto si vedrà. Bene, faccio qui una battuta, non voglio necessariamente un commento, però la battuta è ovvia. Non è riuscito l'accordo nel 23, ma 100 anni dopo potrebbe riuscire, insomma, no? Vabbè, era una battuta. Allora, il capitolo che a me ha commosso di più, prima di tutto perché il titolo è Traduzione e Tradimento, perché dico che mi ha commosso? Mi ha commosso perché abbiamo a che fare con una delle tante figure naufragate nella storia, di cui non si parla più assolutamente mai, che avrebbero potuto, se, no, un famoso discorso, che se la storia avesse piegato da un'altra parte, forse sarebbero state oggi ricordate in maniera diversa. E stiamo parlando di Luigi Credaro. Luigi Credaro è il protagonista di una vicenda politica sfortunatissima, perché lui si trova praticamente a gestire quel passaggio, diciamo, dalla fine della guerra all'avvento del fascismo, in cui la cosiddetta Italia liberale, in modo molto affannoso, avrebbe anche potuto provare a immaginarsi una evoluzione diversa della convivenza tra italiani e tedeschi qua nelle nuove province. La cosa appunto va in modo del tutto diverso. Il destino di Credaro è un destino tristissimo, tanto è vero che appunto è talmente triste che nessuno lo ricorda, però fa in tempo a fare una di quelle operazioni all'alfabeta, cioè all'alfabeta ante litteram, perché lui dice: sì, vabbè, noi siamo nemici, siamo avversari, ma io voglio capire quelli cosa dicono, insomma, e la cosa importante è che noi capiamo cosa dicono, per cui fammeli sentire, fammeli andare a leggere, fammeli addirittura andare a tradurre, perché così leggiamo quello che dicono. Oltretutto lui, conoscitore della lingua tedesca, apprezzatore della cultura tedesca, quindi insomma un personaggio estremamente atipico, del quale oggi credo nessuna via, nessun vicolo, nessuna piazza ne porta il nome, ma tu giustamente gli hai dedicato un capitolo splendido. E allora, a questo caso della traduzione, se ci vuoi, come dire, dare un'anticipazione, ma appunto solo anticipando, poi leggeranno loro. Credaro è un personaggio. Pensate che Credaro, quando è ministro della pubblica istruzione durante la prima guerra mondiale, fa una cosa di quelli che si dicono rivoluzionari, cioè lui sottrae la competenza delle scuole primarie e le elementari ai comuni, che se la gestivano ognuno per conto proprio. C'erano quelli che la facevano bene, c'erano quelli che la facevano male, c'erano quelli che non la facevano per niente. Il tasso spaventoso di analfabetismo era dovuto anche a quello. E Credaro dice: no, questo è un compito dello Stato. È lo Stato che deve garantire a tutti i cittadini l'istruzione primaria. Pensate, è una delle riforme, poi varrà Gentile con la sua scuola, ma è una delle riforme fondamentali, perché mira, non sarà facile, a dare il diritto all'istruzione primaria a tutti. Questo è il signor Credaro, che ha studiato in Germania, che conosce benissimo il tedesco, che è un grande ammiratore della cultura e della filosofia e della didattica in tedesco, e che viene mandato qua apposta per dire: vedi tu che li conosci, se riesci a cavarne fuori qualcosa. Badate bene, i fascisti, i nazionalisti, Tolomei in primo luogo, lo odiano ferocemente, perché evidentemente non è d'accordo con i loro programmi, ma non di meno lo criticano violentemente anche gli uomini del Deutscher Verband e i politici sudtirolesi, i quali gli rimproverano questo fatto di voler aprire scuole italiane dove si pensa non esistono persone di lingua italiana. Ce n'erano parecchie, specialmente da Salorno a Vadena a Bronzolo, la presenza italiana nella seconda metà dell'Ottocento era cresciuta. c'erano scuole italiane nel Trentino, lì no. Allora Credaro dice, beh, facciamo, mettiamo le scuole, e lì inizia la guerra, perché le scuole, allora come oggi, sono un terreno delicatissimo minato. Credaro fa alla fine, tradito dai carabinieri e dall'esercito, che quando i fascisti, dopo aver cacciato Peratone, reoccupato la scuola qua, intitolata Sissi, e averla ribattezzata Regina Elena, come se c'è qualche bolzanino un attimino age se la ricorda, era la Regina Elena, adesso è la Dante Alighieri, ma noi siamo cresciuti dicendo che quella era la Regina Elena. Quindi, quindi vedete che le cose poi ci arrivano anche. E Credaro vanno lì, assediano Trento, parlavamo di fascismo di confine. Uno dei comandanti dell'operazione, tale Francesco Giunta, esatto, che è questo avvocato fiorentino che inizia a dar prova di sé con le scorribande delle squadre a Firenze, ma poi va a Trieste, dove realizza quella bella impresa dell'incendio del Balkan, che vuol dire la distruzione della casa che ospitava tutte le organizzazioni culturali slovene. Visto che si era così, lo mandano a Bolzano, ma ci sono, c'è Farinacci, c'è Starace, non ci facciamo mancare niente. E Credaro fa un errore catastrofico, che è quello di dire, vabbè, signori, questi vengono qua armati per... Io rimetto i poteri a voi, autorità militare, come dichiarare lo stato d'assedio. Una volta che quello gli ha rimesso i poteri, quelli dicono, ah sì, ma sa, è molto meglio se lei prende e se ne va, perché se no qui non vorrà mica che noi andiamo a fare rivoltellate con i nostri amici, con i nostri colleghi, con i nostri camerati. E la storia di Credaro finisce così, 20 giorni prima della marcia. Insomma, lui era stato nominato senatore, come ex ministro, aveva diritto alla nomina. Senatori, il Senato allora non era elettivo, fino al 45 il Senato era di nominati. Lui è senatore, c'è nei verbali del Senato un lungo discorso nel quale lui dice come stanno le cose. Respinge le accuse, diciamo, è vero che io ero lì servo dei tedeschi, anzi, i tedeschi ce l'avevano con me. Però bisognava trovare un modo per inserire queste persone nella nostra realtà. E il modo lo troveranno Tolomei e Mussolini dalla primavera del 23 in poi. Ecco, ma a proposito di Tolomei... So, aggiungere solo perché nella tua bellissima ricerca su Credaro, che è davvero una persona misconosciuta ormai, e merita invece di essere scoperta a pieno titolo, perché è semplicemente una persona giusta, è un giusto, non trova a sua volta interlocutori sulla sponda di lingua tedesca, cioè anche come peraltro tu non solo è avversato dai nazionalisti italiani e dai fascisti ovviamente, ma anche dai Deutschnational tedeschi, dal Deutsche Verband, e uno degli elementi più belli della sua azione politica è proprio la traduzione, cioè l'introduzione che lui fa, la traduzione del libro di Karl von Grabmaier, avvocato bolzanino liberale, Land und Leute, Südtirol Land und Leute von Brenner bis zur Salona Klaus, che esce nel 19 a Berlino come una sorta di lagnanza o comunque di documentazione dei diritti delle aspirazioni tirolesi dopo l'annessione, e nel 20 esce il volume in italiano La passione del Tirolo dinanzi all'annessione, e potete capire in che momento, cioè quando esce questo libro, in quel momento è come una mina. E il commissario civile Credaro offre un'introduzione, e pertanto è un'azione talmente coraggiosa la sua di dar voce all'altro in questo caso, ma dar voce in modo convinto, in modo, cioè, e questa lì si presenta tutta la statura, tutta la forma mentis di Credaro. Assolutamente, per cui veramente, insomma, se di Credaro sapete non moltissimo, In questo libro c'è un bellissimo capitolo dedicato a lui e vale la pena assolutamente leggerlo. Vengo alla fine, mi avvicino alla conclusione, lo faccio sulla scorta dell'orologio, non perché sono 18:31, non perché io qui starei a parlarti 3 ore e mezzo, però invece vengo alla fine. Uno che sicuramente era l'anticredaro, perché insomma, tu riporti, Maurizio, nel libro anche delle, come dire, le sue recensioni, era Tolomei, Ettore Tolomei. Tu a Ettore Tolomei hai dedicato un libro, per cui non è nazionalista, non c'è bisogno di starci sopra troppo, però una cosa forse va detta, e mi rivolgo qui a te ma anche a Hannes. Ecco, al contrario di Credaro, che nessuno se lo ricorda, Tolomei tutti ce l'hanno stampato in testa attribuendogli fondamentalmente un successo che in realtà quest'uomo non ha avuto, cioè l'inventore dell'Alto Adige, il castigatore dei tedeschi, quello che si è fatto seppellire in un modo che potesse guardare l'ultimo tedesco abbandonare la valle dell'Adige e compagnia bella, alla fine era uno sfigatore. Comunque non gli va bene, la sua immaginazione dell'Alto Adige viene in qualche modo non viene esaurita, non so, facendo una percentuale, non molto, tant'è vero che poi anche lui esce di scena, sia perché appunto esce di scena come tutti noi usciamo di scena, però fondamentalmente dell'epilogo del libro, della tua narrazione, quando si arriva al 27, cioè quando si arriva alla divisione del territorio in due province, lì lui subisce uno scacco abbastanza evidente. Allora, qua torniamo su un terreno che mi è fin troppo. Uno dei capitoli del libro, che è quello dedicato a questo numero unico della rivista ideologica del regime, Gerarchia, che esce già nel 27, nei mesi centrali del 27, la rivista fa due numeri unici, uno dedicato alla Venezia Tridentina e uno dedicato alla Venezia Giulia. Quella è un po' beffarda, questa della Venezia Tridentina, perché qualche mese prima Mussolini aveva deciso di spaccarla in due, questa Venezia Tridentina, creando la provincia di Bolzano e infliggendo un torto che i trentini non gli perdoneranno mai. Ce la legheranno al dito questa. Come compenso gli lascia quello che noi chiamiamo la Bassa Tesina, che allora amministrativamente parlando era il mandamento di Egna. E lì Tolomei, l'ho raccontata 100 volte, si infuria, perché Tolomei aveva questa concezione sacrale della natura, per cui la chiusa di Salorno era il confine, non bisognava alterare quello che la natura aveva. La cosa interessante è che in questo caso, proprio in questo numero di Gerarchia, che riporta diversi articoli, che sono secondo me un interessante paradigma di come il regime vede la situazione, non che fosse così, come la vede il regime, come la vedono gli uomini del regime. C'è un po' di tutto dentro. C'è il professore di disegno mandato a Ortisei a orientare l'attività delle sculture artistiche, che poi viene cacciato perché non si accorda con i valigiani scultori, ma c'è un po' tutto il mondo. E c'è anche Tolomei che cerca disperatamente di dire ai trentini, ma io non... E lì confessa, io non ne seppi nulla di questa storia, cioè l'atto più importante del regime nell'arco dei 20 anni che dura, cioè la creazione della provincia di Bolzano, Tolomei dice, a me non l'ha detto nessuno, Mussolini. Dopo il 24-25, Tolomei, che non vuol dire che Tolomei sia un perdente, perché la sua idea di come fare va avanti, solo che non è lui a orientarla, non è lui a decidere, un po' perché Mussolini non se ne fida, non gli piace uno spirito, e un po' perché lui è l'uomo che non ama essere intruppato, inquadrato, essere un prefetto, non è un prefetto Tolomei, non è, non, non lo sarà mai. In questo numero ci sono diverse altre cose interessanti. Io sfogliandolo, grazie al cielo, internet è una cosa meravigliosa, uno schiaccia un bottone, c'è il PDF, dopo 5 minuti sul computer senza bisogno di dover andare in giro per il mondo a fare fotocopie, ho trovato veramente un aspetto, cioè di un regime che sta cercando di capire come muoversi, e la creazione della provincia è parte terminale. Se si pensa quanto i fascisti e i nazionalisti avevano tuonato contro l'idea di una provincia di Bolzano quando a ventilarla era Credaro, dicendo qua bisogna dare a questi una sorta di autonomia ante litteram, no, provincia unica, gridavano, gridava Tolomei, che anno dopo fanno, adesso non voglio essere provocatorio, ma avviene più o meno quello che avviene negli anni 60, cioè per far funzionare la cosa bisogna separare Trento da Bolzano, lo fa Mussolini nel 27, lo faranno poi col pacchetto alla fine degli anni 60, è una storia che si ripete anche se in condizioni con cose abbastanza diverse. Insomma, è Mussolini quello che ha creato il Los von Trient. Però ricordiamoci di una cosa, che quando Tolomei muore negli anni 50, Repubblica Italiana nata dalla Resistenza, gli vengono tributati i funerali di Stato e la salma viene tumulata dopo essere stata passata davanti all'assacello di Cesare Battisti con i carabinieri in alta uniforme che gli rendono gli onori. Questo ricordiamocelo sempre, perché se ce lo ricordiamo possiamo capire anche alcuni passaggi di quegli anni, alcune difficoltà poi superate, però questo succede. Bene, allora adesso chiudo. Ah no, volevo dire? No, volevo solo dire, il Los von Trient peraltro è stato lanciato la prima volta nel maggio del 20 a Merano. Cioè, l'abbiamo studiato in un altro libro peraltro, cioè è molto interessante che questo Los von Trient del 57, sì. Io non lo ricondurrei a Mussolini, ma proprio al ma comunque al discorso, al dibattito interregionale dopo l'annessione, peraltro dove si presume che Franz Kafka assisteva, no? Perché era a Merano in quelle fasi, ma comunque questo forse addirittura è Kafka che sì, è Kafka, ha lanciato lo Sport Trient, uno dei racconti minori, sì, è anche il redattore del primo statuto dell'autonomia e la firma di Kafka non sarebbe stato male. Ultima domanda e poi come dire, voi intanto preparatevi per intervenire. Dicevo dell'appendice perché questo libro appunto è una sorpresa, una sorta di regalo finale, un testo, quasi lascerei, ma un testo di uno studioso inglese, anzi di un quacquero, che si chiama John Sturge Stephens, il quale io confesso di non aver mai sentito nominare, però sono francamente non me ne posso dolere molto, perché tu scrivi che del suo testo che tu recuperi, che qui commenti, ma non viene prodotto diciamo in traduzione, ma commenti largamente e contestualizzi, ne esistono pochissimi esemplari nelle biblioteche, tu parli addirittura di un quasi incunabolo, e quindi è una vera tua diciamo scoperta, insomma, o riscoperta, ma scoperta. Ora, domanda semplice: chi è questo tizio? Perché dobbiamo in qualche modo occuparcene, se finora vivevamo bellamente non conoscendolo? E più seriamente, quale ruolo ha diciamo nell'economia della comprensione non solo della questione sul tirolese, perché lui non parla solo di questione sul tirolese, ma del problema delle minoranze? Faccio presente che lui scrive questa cosa nel 29, quindi diciamo si incastra benissimo nella cronologia del libro, ma è di una lungimiranza spaventevole. Assolutamente, no? È il testo ancora del 27-28, è pubblicato poi nell'edizione di Leopold e Virginia Woolf, nella Hogarth Press di Londra, Danger Zones of Europe, le zone di pericolose d'Europa, è un libro molto preveggente, è una ricerca mia già di qualche anno fa, che però grazie all'ottima davvero traduzione di Giuliano Geri, che peraltro è un po' il miglior fabbro, per usare un termine abbastanza conosciuto, no? Cioè, del libro stesso, no? Perché Giuliano Geri dextera manus di Aldo. E questo John Sturge Stevens è uno storico di Birmingham, qualche ora appunto pacifista convinto, ma storico anche di professione, che ha pubblicato pochissimo in vita sua. Era molto amato dagli studenti, per quanto si capisce anche dal necrologio, che è in un archivio inglese nella Cornovaglia a Truro. Ci sono le sue carte, di cui sono venute, diciamo, le copie ovviamente, e lui interloquiva con Paul von Sternbach, che è uno dei appartenenti al Deutsche Verband, uno della seconda generazione, per così dire, e convinto antifascista ma anche antinazista, che un po' lo eleva al di sopra del solito antifascismo, che spesso è anche semplicemente antitalianismo, ma lui era davvero antifascista e antinazista, Paul von Sternbach. Cioè lui è un po' il suo Stevens, che fa indagine sulle minoranze in Europa che sono venute create dopo gli armistizi, cioè dopo il Trattato di Pace di Parigi del 19. Ci sono un sacco di nuove minoranze in Polonia, nelle nuovi stati nazionali, tanti attriti, e però siccome lui è osservatore ufficioso per conto della Lega delle Nazioni a Ginevra, della League of Nations, in questo libro, in questo opuscolo, dedica parla della balkanization, cioè balcanizzazione dell'Europa, no? Cioè un'Europa piena di conflitti, e dice: se queste cose vanno male avremo un nuovo grande conflitto, e come avrà ragione, purtroppo siamo prima ancora dell'avvento del nazismo. Ma lui studia il caso sudtirolese, South Tyrol. C'è un capitolo molto molto bello dove lui descrive le politiche oppressive e repressive del fascismo, e le fa un po', cioè le prende a modello di un approccio totalitario o comunque dittatoriale rispetto a minoranze. Lui legge nella sua ottica, anche da qualche, diciamo, da dissenter, no? Cioè lui che anche all'interno del United Kingdom, no? Aveva sempre avuto una storia molto travagliata, cioè quando si rifiutano a prendere le armi, per esempio, no? Quando si rifiutano, no bishop, no king, no? È il loro motto, cioè questo è un po', forse anche idealizzando, no, le nuove minoranze, ne fa dei oppressi, quasi anche come alla stregua delle minoranze religiose del 600-700, e dice: se queste cose vanno male con questi qua, e prende il Sudtirolo come esempio campione, allora questo continente va a scatafascio, no? E in questo sta tutta l'originalità, anche, o comunque il bello della sua osservazione è quella, perché è un'osservazione in tempo reale, no? Cioè non è scritta col segno di poi, cioè lui, e peraltro è quello che ne fa un osservatore così acuto e anche così implacabile e incorrotto, direi. Lui, la prima cosa, perché lui è anche uno che ama la cultura tedesca, un po' come Luigi Credaro, ma la prima cosa, quando nel 1933 i nazisti vanno al potere, scrive delle lettere di protesta nel Manchester Guardian, no? Dove aveva pubblicato anche le sue expertise sulla situazione sudtirolese. Cioè lui subito, e cerca, peraltro c'è una lettera a Beasley, no? Da un suo collega britannico, perché c'erano tante simpatie, no? Nel mondo britannico, sia verso Mussolini sia anche verso Hitler, e dice: guarda, sbagliate, no? E lo dice in tempo reale, e questo è, cioè, non col segno di poi. Benissimo, chiuderei con questa citazione sua che dice: "No single ray of hope for the future of Europe shines forth from the nationality policy of fascismo." Nessun raggio di speranza per il futuro dell'Europa traspare dalla politica del fascismo italiano nei confronti delle minoranze etniche. Allora, io non so, avete visto quanta roba c'è in questo libretto? Anche questo smilzo, ma non tanto, insomma, sono 280 pagine. C'è un sacco di roba, scritto bene, meraviglioso, loro due sono meravigliosi anche a parlarci, e quindi grandissimo applauso per Anne Soberman. Grazie. 18:47, perfetto. 15 minuti di domande, se no dai, su, domande, forza, tanto dubbi, rimostranze, critiche, insulti no, quelli li evitiamo, quelli su Facebook dopo. È difficile quando non si ha, su Facebook dopo, diciamo. Abbiamo visto una presentazione di tre imbecilli. Tanto che voi ci ragionate, perché so che una cosa alla quale mi piace, perché mi ci sono divertito, è quella, questa piccola galleria di personaggi, sì, che si trovano a passare di qua. A me piacciono queste coincidenze, c'è poco da fare. In un libro che c'è lì, che è quello su Mussolini all'Alto Adige, io mi immagino Mussolini nelle ultime ore della sua vita che va verso Merano e si ricorda di quando nel 1909 a Merano, sindacalista, si scontrava con De Gasperi, cioè i due uomini che hanno fatto l'Italia del Novecento, in una domenica di febbraio freddissima a Merano fanno un duello oratorio. Mi piacciono queste coincidenze, mi piacciono e le trovo stimolanti. Qua ci sono le coincidenze, pensate a questo, è stato accennato questo Barbesino, ne parlavo con la collega della RAI prima, giovane campione di calcio olimpionico, futura promessa del un Locatelli della situazione, poi dopo la guerra si reinventa commerciante di legname, capo dei fascisti bolzanini, partecipa alla marcia su Bolzano, però in posizione defilata, non è uno dei RAS, come li chiamavano, e poi fa questo accordo con il Deutsche Verband che viene fatto saltare, allora se ne va, rispunta come allenatore di calcio, porta la Roma quasi allo scudetto, ma lo fregano perché quegli invidiosi delle altre squadre, siamo nel 36, c'è la guerra d'Etiopia, dicono ai campioni argentini: guardate, siccome sono oriundi, che vi mandano in Abicinia a combattere, quelli scappano e lui rimane senza giocatori e lo scudetto lo vince qualcun altro, allora se ne va di nuovo. La terza vita finisce così, la quarta vita è quella di aviatore e muore nel Mediterraneo durante la guerra mentre cerca di salvare dei colleghi che sono caduti. Ma io la trovo, non so voi, ma io, quest'uomo dalle quattro vite, e che in quei giorni a Bolzano si incontra e passa delle ore con un altro giovanissimo, anche quello, Augusto Guerriero. Augusto Guerriero, adesso... Io vi dico Augusto Guerriero e non a tutti dirà qualcosa. Giovanissimo, sa il tedesco, lo mandano a Bolzano, prende il posto di Peratone, rimane alcuni mesi, poi fa la sua carriera, ma intanto comincia a scrivere, gli piace. E qualcuno gli dice, credo Malaparte, dice devi prendere uno pseudonimo. E lui assume uno pseudonimo, e adesso quando ve lo dico forse qualcuno di non più giovani, Ricciardetto. Lui diventa Ricciardetto e diventa uno del dopoguerra, uno dei giornalisti forse più noto e stimato persino di Indro Montanelli, e scrive sul Corriere della Sera di politica estera, ma scrive anche di Alto Adige. C'è una bellissima polemica con i Dolomiten che io ho un po' recuperato, e avanti questi personaggi che hanno segnato per un giorno, per un'ora, per qualche settimana la vicenda. Ci sono i fascisti, De Stefani, l'economista veronese, Starace, l'uomo che faceva saltare gli italiani attraverso il cerchio di fuoco, tutti passati per di qua, erano tutti qua in quei giorni, e quindi mi piace, mi diverte l'idea di pensare a queste esistenze che si prolungano. Poi c'è tutto il mondo di lingua tedesca, Reuth Nicolussi, l'arci anti-italiano, l'italiano nella sua essenza più ultima, della quale però io quando vado nelle scuole cito la sua perorazione disperata davanti al Parlamento austriaco nel 19, poco prima della firma. Dice: noi a questa cosa diremo un no eterno. E io spiego ai ragazzi: guardate, se non capite questo, poco potete capire delle vicende di questo secolo, di quel secolo, se non capite che quel no prepolitico, viscerale, emozionale si imprime nella carne dei sudtirolesi. Quindi Reuth Nicolussi, Toggenburg, gli uomini, Barzini, ecco, è una storia che è fatta il parroco di Salone, che viene cacciato e mandato a finire la sua carriera di parroco in quel di... non tirò la scena, ecco. La scena dove da, perché non fa predicare in italiano il parroco mandato il prete italiano mandato dal vescovo, e i fascisti arrivano, lo tirano fuori di casa, lo tirano fuori di casa, vola anche qualche sberla, e lì c'è il vescovo, il prefetto che scrive al vescovo, il vescovo che dice: beh, guarda, noi non posso mandare via un parroco così, cioè non si fa, e il prefetto: però tu, poi alla fine se ne va. E si va avanti così. Ed è la storia di un conflitto, di una acrimonia che dura nel tempo, perché poi c'è le catacombe in Sciule, c'è l'avvocato Noldin, e questo bellissimo libro che hanno scritto sulla figura di Joseph Noldin, un libro a più mani. Io vorrei che voi vi leggeste la parte che riguarda il confino di Noldin e i suoi rapporti con gli altri antifascisti, perché è emblematico di quello che era il rapporto fra i sudtirolesi e gli altri. E sono veramente questi personaggi che hanno fatto le vicende, che hanno lasciato la loro impronta, e che quindi meritano di essere conosciuti come Credaro, ricordati, perché se le cose qui stanno così è anche perché questi hanno fatto questo. Certo. Ora, se non fate domande, lui va avanti per altre 6 ore. Ah, io sì, Prego, là. È una minaccia. Una minaccia. No, sono i fatti. Grazie. Due brevi commenti. Il primo, io non definirei Tolomei uno sfigatone, e se è un sfigatone ha lasciato un'eredità ben duratura che conosciamo tutti, la toponomastica che è tuttora in vigore, e è un, detto in tedesco, un gordischer Knoten fino adesso. Se la mia non era una definizione scientifica. Sì, va bene. Punto numero due, questo othering, questo concetto è molto interessante, però a mio avviso l'othering non è una cosa dal passato remoto, ma è una cosa di recente. Per esempio, penso che tutti quanti conoscono un po' l'IMES, questa rivista di geopolitica. Nel 2018 un autore, Dario Fabri, ha scritto della popolazione alogena di questa terra, e che Roma ha annesso il territorio, però non può annetterne la popolazione. È un ordine evidente, a mio avviso, e mostra a me che questi concetti purtroppo non sono cose passate, ma tuttora hanno la loro malvagia forza. Grazie mille dell'intervento. È un intervento, non era una domanda. Penso che siamo d'accordo, peraltro. Sì, c'è un fondo, prego. Poi ecco, vedi, si risveglia. Sì, buonasera. Una domanda, per favore, a proposito della vicenda politica di Luigi Credaro, che appunto Maurizio Ferrandi ha dedicato un intero capitolo, con anche il coinvolgimento dell'avvocato di Firenze, Francesco Giunta, se non ho capito male, visto che non ho ancora letto il libro. Avete trovato nel vostro lavoro, nella vostra ricerca, dei legami con le massonerie? C'è ancora qualcuno? Posso fare? No, magari prima se è meglio così. No. Allora, io adesso francamente Credaro era un liberale. A quell'epoca era ben difficile trovare qualcuno che non fosse iscritto, dei liberali di governo che non fosse iscritto a una loggia. Io personalmente non ho trovato elementi che mi facciano, non so se Andes, no. La massoneria è uno degli elementi costitutivi di quel regime, di quella classe politica, erano più o meno tutti massoni. Diciamo che Credaro tra questi non era, per esempio, uno di quelli particolarmente anticlericale, non mi pare che fosse uno di quelli che pestava duro, anzi, i rapporti con il vescovo. La storia del vescovo, dice Sarri, di queste cose sa infinitamente più di me. La storia della Chiesa e del rapporto, io ho raccontato la storiellina di Salorno, ma meriterebbe, perché lì veramente è un terreno da arare ancora abbastanza ampio. Cioè, non mi pare che Credaro o gli altri. Poi i fascisti e la massoneria è tutta un'altra storia, ci sarà poi la rivolta contro i massoni di una parte. È curiosa una cosa. Uno di coloro che nel mondo fascista gridano più forte alla cacciata dei massoni, facendosi cacciare, perché i massoni rimangono potenti anche durante il regime, è tale Giovanni Preziosi. Giovanni Preziosi è l'antisemita italiano per excellence, il campione degli antisemiti, l'ultra antisemita. Beh, Giovanni Preziosi è anche l'uomo al quale Mussolini affida il compito, assieme a Ettore Tolomei, di preparare i provvedimenti per l'italianizzazione dell'Alto Adige. Io non mi stanco mai di ricordarlo. Il rapporto che va al Gran Consiglio nel giugno del 23 è il rapporto Tolomei-Preziosi. Preziosi diventerà poi sempre più antisemita, emarginato dal regime. Durante la Repubblica Sociale Italiana si scatena in tutto e si ucciderà con la moglie gettandosi il 25 aprile del 45 dalle finestre di una casa di Milano. Prego, recuperiamo la domanda. Sì. Allora, ne avevo così tante domande che cercavo di fare un riassunto. Sono varie cose veramente che mi interesserebbero, e grazie anche per della buonissima presentazione del vostro progetto, del vostro libro. Lei diceva che arriverà un secondo volume? No, era una minaccia. No, perché c'è una domanda. Ok. No, perché mi chiedevo. Con questo editore non si sa mai. Ah, speriamo di sì, allora. Mi chiedevo in quanto questo, cioè, il libro di 260-70 sì, pagine, sì, 270, cioè, dai. Può riassumere, no, questa, cioè, epoca così tanto importante per la storia di questa terra, no? Della provincia, cioè, è possibile di metterlo tutto dentro in un libro? E seconda domanda, magari più una riflessione, una domanda in generale: secondo lei, signora Ferrandi e Hannes Obermeier, o magari anche a lei, a loro parere, gli sembra che la conoscenza di questo passato in una generazione più giovane è presente o è nel nostro nella nostra terra è anche difficile di trovare tipo dei punti di incontro di questa storia. Cioè, non so se mi spiego. Sì, ok, perfetto. Mi sembra anche una domanda proprio conclusiva par excellence. No, ma io lascerei a te il... No, ma anche tu... No, no, la domanda era rivolta soprattutto a te. No, allora grazie della domanda, è molto molto bella. Quanto è presente una storia di 100 anni fa oggi? Non è presente per niente, cioè nel senso come memoria collettiva, come memoria culturale, come è così lontana come la guerra dei 30 anni, è così lontana come le crociate del XII secolo, a mio avviso. Certamente gli storici, poi io includo in questa categoria assolutamente te, se no mi dichiaro giornalista. Allora, gli storici tendono a sopravvalutare in genere, no? Cioè, di quello di cui parlo non penso che è un tema largamente noto, e non è così, e non può che non essere così, perché in questo sono molto ben a testa, no? I problemi sono ben altri. Certo, poi è utile ricordarli, no? Perché ti fanno capire un po' la psicoanalisi di un territorio. Cioè, le disposizioni mentali odierne sono, io credo di sì, influenzate. Cioè, il tuo no che tu hai così di... Cioè, queste sono cose che una volta... È come la bottiglia, no? Una volta tolto il tappo, questi spiriti non entrano, non vi entrano mai più. E abbiamo tante di queste bottiglie, di queste, con tanti tappi stappati. E il lavoro, penso, di ricostruzione storica è anche un po' questo, no? Anche, mi ricollego anche alla domanda che il Signore ha fatto, no? Cioè, che mi sembra, o il commento, no? Che proprio ricalca anche questo aspetto del... questo territorio qua è sicuramente deputato, è utile ed è importante che ricordi, perché è così pieno di vicoli ciechi che queste cartine è utile che le disegniamo, cioè le disegniamo. Ce la si potrebbe cavare con una battuta. Comunque, studiare la storia, qualsiasi storia, è inutile e imprescindibile. No, io non ho domande, volevo solo così condividere una riflessione che facevo da un po' durante i vostri discorsi e che mi giunge proprio giusto quello che ha detto Obermaier sugli spiriti che fuggono, no? Che fuggono dalla bottiglia o le pagine di storia sommersa. E, ce ne sono tante, e secondo me il pregio di questo libro, come di altri, sul fascismo, sugli optanti, su tante altre, sono molto importanti, e oggi soprattutto, perché i giovani veramente non sanno nulla di questo. E questi spiriti fuggiti dalla memoria sono le camicie nere a Bolzano, il fascismo a Bolzano. E perché? Perché si è voluto poi negli anni successivi, in una ricerca, forse non uso il termine esatto, ma di pacificazione o di incontro o di autonomia condivisa, seppellire tante, dimenticare, il fascismo c'è, indimenticabile, però diciamo un accordo tacito, non parliamone, non stiamo a sviscerare quei momenti. La stessa cosa vale parimenti per l'adesione al nazismo, la simpatia per Hitler, visto come quello che avrebbe risarcito in un certo senso, no? I sudtirolesi di madrelingua tedesca traditi dai trattati della prima guerra mondiale, poi successivamente anche della seconda. Quindi anche lì si glissa un po', no? Sull'adesione al nazismo. E poi in ultimo anche il lager di Bolzano, in fretta e furia si è cancellato, ci sono stati fatti i condomini fino agli anni 80 c'era gente che fine anni 80 che non sapeva che a Bolzano c'era un lager. Quindi questi spiriti che fuggono dalle pagine di storia, lasciamolo fuggire. E quindi grazie agli scrittori, a Maurizio e a tanti altri, a Ubermai, che parlano di questo. Bisogna parlarne, perché le cose nascoste non aiutano. E soprattutto i giovani devono essere consapevoli del dolore di questa terra, ma anche di un progetto che comunque si è fatto. E basta che guardiamo in questi giorni cosa accade tra Palestina e Israele, insomma è molto importante l'autonomia e quello che è stato fatto. Benissimo, perfetta conclusione, credo bisogna parlarne, bisogna leggere, e quindi per leggere però bisogna comprare i libri che stanno lì, perché sennò va bene.